E beh, lì lo. E beh, umida. E beh, lo. E beh, ma lui. Luia, mi riesco ad saltare adesso, cazzo cazzo, ho malotti, luia. Ti ha date, sai domani sul servizio, la Torres, con le guardie. Domani all'una e mezza, da l'una e mezza in poi. Non so fino a che ora, buh. Sei saluto, con Maciucco. Ah, oggi è un Maciucco, ma anche no. Chi? Con le guardie dove sto io. Sì, ma c'è Maciucco, c'è tutta la combricola lì, da Torres. Ma noi siamo da parte, non facciamo parte di Maciucco. Ma voi cosa dovete fare? Ma Maciucco chi, Fabio? Sì. Non lo so cosa dobbiamo fare. Andrà beh, le russi, è lì finita avete. E dove, Manuel? Lì, adesso facciano pannelli fotovoltaico. No, mi sono dovuto assentare per portare la mamma all'ospedale. Ha scritto un messaggio, non mi ha risposto. E fatta giù il crogo su le borse nella sulle storie. Niente, no, è bello come la fa, non è. Cioè. Non è pesante. Poi una volta ci siamo rotta di coglioni di stare in ginocchio piazzando le verghe sulle tegole. Con le barre, con un tassello chimico. E niente, poi le devi mettere a livello. Una volta i pannelli vanno affiancati uno con l'altro, vanno state con queste cose, queste staffettine con la vite autoforante. Non è difficile. Lavoro poi, cioè non è, fai la calata dei fili, poi giù ti fa l'impianto, devi mettere le batterie, sono cose così. Questo l'abbiamo fatto noi da 15 pannelli, da 400, allora, 430 watt l'uno mi pare, o 405, non mi ricordo. Quindi ci fate il conto, 6 kW di corrente. Yes, vai giù. E lì dove sono io hanno quasi finito un lotto. Adesso devono fare l'altro lotto, viene ancora un po' di poco. Ma in terra li fanno loro? Eh? In terra li fanno loro. In che senso in terra? I paletti mettono, fatti i buchi, cementati, poi mettono le verghe e i pannelli. Prima mettono tutti i pali. Sì, vabbè, dico in terra, non lo fanno sul tetto, dai. Sì. Emanuele, è un casino. Cioè è bello come la forma e poi piace, l'elettronica, è così. Mi rompo le balle, mi fa fare il mio lavoro, perché ovviamente se ti vedi qualcosa te la dice, ma non è tipo che. Infatti che un mio amico d'infanzia. Vabbè, lui ci sono due anni di differenza, perciò siamo amici d'infanzia. Il fratello alla mia età. E tra l'altro anche un fratello anche. Era camionista. Adesso non lo sta più facendo perché ha avuto un problema. E niente. No, mi trovo bene, 50 euro al giorno, va bene. Cazzo, va bene, sì. Ma poi non devi entrare qua da zoofila. Ci sono già, Manuele, tanto fare il servizio domani. Ah, vabbè. Ma fai il giuramento, Manuele, manca il giuramento e basta. Ho già il tesserino, capito? Beh, il tesserino lo per forza, quando mi devo presentare, presento col tesserino. Quindi mi presento così. Soprattutto quando sono in borghese. E sono dice, chi cazzo lo sto qua? E niente, è così. Dove? Ma va bene, almeno mi svago, dai. Ho fatto il corso BLSD, ci ho già attestato. Adesso devo fare quello del muletto e l'altro antincendio. L'antincendio è molto importante, se riesco a trovare qualcosa con l'antincendio anche all'ospedale, magari. Okay. È buono. Antincendio è 260 euro il costo antincendio. A noi ce lo fanno fare gratuito. A te? A voi? Meglio così, farlo subito allora, siamo a 260 euro il corso. E che durata ha? La durata è ogni 3 anni, prima era ogni 5 anni, il rinnovo, adesso è ogni 3 anni. E si paga 250 euro per rinnovare? Allora, per fartelo, che non l'hai mai avuto, è 280 euro. prima era dai 300 in su, adesso hanno abbassato 200, prima era da 360, poi da 360 hanno fatto 280, poi da 280 hanno abbassato a 260 adesso. Sì, ma quello che dico io, il rinnovo è, come si dice, sempre così caro, lo pago di meno. Non lo so, non lo so, penso qualcosa in meno, penso, io me lo auguro che sia così, ogni 3 anni, cazzo, prima, ma guarda, lascia perdere, lui, c'è tutto magna magna. Ma tu ce l'hai? No, io l'ho fatto, però sono uscito bruciato per il fatto della, non gli ho voluto, non ho saputo la, dal tragitto. Siccome l'estintore, ti dicono l'estintore dove va, vicino alla porta, alla porta blindata, quanto manca dalla porta blindata all'estintore, dovevi dirgli queste cose qua. Poi quando c'è qualche incendio, gli spiriti dovevi farli sapere a cosa servono, capito? Mi sono impappinando e mi ha rigrebbato, sono agazzato. Il corso l'ho fatto lo stesso, il corso l'ho... ok, mi hanno bocciato a voce. Ma l'hai pagato lo stesso? E allora, anche se rubavi sì, la stessa. Però allora era 150 euro, quando l'avevo fatto io. Ma se il corso BLSD costa 120, non l'abbiamo pagato 50. E il rinnovo, se non lo rinnovi prima di scadere, lo paghi 30 euro. E se no li vado a capo. Tutto a capo. Un travaglio, mamma mia. Il corso BLSD è un lavoro veramente. Devi rianimare, ci ti danno il manichino per rianimarlo, okay? Nel gazzino. Quindi vabbè, comunque. Io vabbè, mi tra un po' esco. Oggi esco, io non sono uscito, sono rimasto a casa. Non lo faccio tardi, che poi domani, se no, poi mi manco lo buco, mi ribesa. Io non sto più uscendo con questo lavoro di merda, non c'ho più tempo di uscire. Cazzo, smonti la notte, fai la notte, smonti alle 7, arrivi a casa, cazzo, uffi, di gocchi, allora cazzo esci, lui. E poi alle 2:30 torna di servizio, fino alle 10:30. Poi ci sono minuti fino alle 7 di domani. Poi alle 2:30. E metti cazzo in vai, non sto più uscendo. Allora lo so, bisogna lavorare, quello sì, lo sappiamo tutti, però il discorso è che non hai vita, tu non hai vita, Manuel, cazzo. Quando sei vecchio, cosa cazzo fai? Ci vuole un lavoro, oppure ti hanno una, cosa ti posso dire, un orario stabile, cioè un orario, insomma, più decente, ecco. Cazzo, ho la rigosi di merda, non hai vita proprio, cosa cazzo, cioè, io sono in vita proprio. Come quelli che lavorano in cucina, che fanno la stagione, che fanno lo sprezzato come facevo io. Adesso c'avevo vita. Tu pensi, entravo alle 11, alle 10:30, uscivo alle 4:30, alle 5, anche alle 6, dipende da quello che c'era da fare. Rientravo alle 7 e finivo all'1, alle 2 di notte. E poi domani dorme, vedi cazzo, domani ti riposi un po'. Alle 10, alle 9, alle 8:30 ti alzi, mi sei già preparato, fatto una doccia, un giocato, ci ammatti e fa la torra. E ti vanno a fatta una, tu passi basivo, fai tu conto, 60 km al giorno. Lo so che non è vita, lo so, e guarda cazzo devo qua, ha già bisogno. Cazzo, c'ho le cose da pagare, macchina, affitto, luce e male vai. Cosa cazzo devo fare? Non ando, appena sarà, ho fatto anche il coso adesso, l'aggravamento del problema che ho io, che non posso neanche lavorare, e adesso vediamo un po' quando mi chiamano. Ma no, nessuno ti sta dicendo che hai bisogno, tutti abbiamo bisogno, non solo tu, tutti abbiamo bisogno di lavorare, avere di nada, pagarti di cose. Quello che ti voglio dire io è che non c'è vita, facendo quel lavoro io non è vita, cazzo. Ma è vita, è brutto, cazzo, mamma mia, va. Tu pensi a uno che lavora in cucina tutta l'estate, che cazzo di vita. C'è un giorno di riposo e boh, solo quel giorno si può godere e basta. E neanche il fine settimana, ce l'hai in settimana il riposo. è un casino, vabbè. Come dici tu, bisogna lavorare, quello sì. Però non lo so, non arrivato a questo punto è un casino. Adesso vediamo. Vedi, bello lavoro che sto facendo io, dalle 8 all'1 e dalle 2 alle 5. Poi se c'è un lavoro da finire ti trattieni un'oretta, ti viene pagata, dopo una sede di euro in più, insomma, parti a 10 euro l'ora, neanche da, ma continui a 10 euro l'ora, per dire, e così, caro Emanuele, così purtroppo, anche lo vorrei fare, ma quelli che vanno all'ospedale, Emanuele, non è meglio, quelli che fanno la mattina e poi fanno la sera, non è meglio farlo lì? È una giovata la domanda, secondo te è una giovata, ci vuole il corso antincendio, alto rischio, ci vuole quello lì. E poi anche se c'è quello, se non c'è il calcio in culo non entri negli ospedali. Pur dopo ragione. È un casotto, è un casotto, invece ci vuole il corso. È entrato mio nipote che c'è il corso antincendio, lo stesso, che l'aveva fatto insieme a me. Io ci ho promosso e lui fa le cose delle pulizie però dentro. Perché vuol tipo grosso? No, quello è a Roma, lui fa il cuoco, quello è Alessandro, questo va a Roma. No, l'altro magrolino, alto, magrolino. Ho capito, Emanuele. Ci posso, bisogna lavorare, però cazzo non lavorarci, mamma mia. Non ci fa più vita. Fai riposo, non ne hai? E riposo, cosa che riposo fai? Secondo te il riposo, quando smonti, fai la notte, smonti la mattina alle 7, ti dai il riposo in quel giorno lì quando smonti, il caso di riposo è che poi la mattina alle 5 devi rientrare a lavorare. Secondo te il riposo è quello? Vabbè, Manuel, allora, chi lavora 7 giorni su 7 deve avere almeno un giorno di riposo completo, capito? Ma questo è una cosa particolare, lascia perdere, se mi sono andati un bel niente, se ne è andato, è un bel gente, lo vorrei denunciare perché è un fannullone, si può dire, perché le buste paghe sono tutti quanti, non sono quelle le ore che fai, e fai molto di più di ore, poi nella busta paga invece di loro ti mettono 1.250, 1.300, invece non più ne manco 1.000 euro bigli. Certo, ci mica tu, ma te minimo lui chiede per te 100 euro al giorno. Se ti bastano, a fare notturno, tra notturno e giorno si prenderà quello lì minimo 120-140 al giorno. A te te ne da 40, tanto si bicca e ti pulito. Si va, se vai di giro di conto si va 3.000 euro a ogni operaio. Esatto, pulito. Io vado a 40 euro la faccio, ma anche no, lo so, ma non è. Hai bisogno, va bene, ci sta, ma a casa c'ho pochi, sono pochi. Non so, vai, fai entrare qualcuno, c'è qualcuno sotto con lui. Chi è avanti? Chi è vuole entrare avanti? Non mi sentite? Ah già, sì. Ah, buonasera. No, ho detto buonasera, forse non hai sentito. Che raga, vabbè, ma noi usalo come tappabuchi, dopo come te ne c'è più una stendinata. Ma certo, no, ma se sto facendo questo, ho fatto il corso dell'aggravamento, non posso neanche lavorare, perché anche io con il problema della schiena non posso fare più un cavolo, anche stare a fare questo lavoro qua, stare in piedi, seduto, mi fa male. Interessante che ti dia la pressione adeguata. Sì, ti daranno la minima, sicuramente ti daranno la minima, quelle 500 euro ti daranno. Ticca, te come ti pagano? Magari ti calcolano anche i contributi come hanno fatto con me, contributi ne hai tu. Contributi ne ho 15 anni solo perché da quando ho iniziato qui a lavorare era sempre a nero, già lo lo sai, no, che non ti assicurava nessuno. Quei contributi che ho li ho fatti su a Milano, che l'ho scritto alla Camera di Commercio, lo stesso, poi ero scritto, ero assunto lì dalla, da un'azienda di edilizia, e gli anni li ho fatti lì, ma 15 anni non fa un cazzo, 15 anni tirano solo la sociale, tirano la sanità. No, non ti bastano 15 anni. Devi fare almeno una trentina d'anni, cazzo basta, cazzo non te la danno quando ce li hai, figurati quando non hai i contributi. Boh. Io pensavo che questi istituti pagassero bene. No, ma guarda, ho già, io lavoro perché l'ho sempre fatto questo lavoro qua, c'avevo 20, 25 anni quando ho iniziato a fare la guardia armata, figurati, non è due giorni. E quindi so quanto prendono le guardie, quanto danno, quanto prendono di... so tutto. E cosa devi fare? Per forza devi lavorare così. Quando troverai qualcosa di grosso, di meglio, meglio te mandi. E domanda è la stessa tutti ne fa. Lui, adesso non so cosa fanno, adesso si assorbono, tra, per non prendere gente di fuori si assorbono tra vigilanza e vigilanza, per non pagare le tasse. Cioè si passano il personale. E allora, se le cambia tra vigilanza e vigilanza, è già da un po' che così. Io conosco uno che era nella cooperativa, quella che c'è... via Reggio la Margherita, mi pare che sia, e dice che si ritirano anche gli utili, oltre ad avere un buono stipendio, si ritirano anche gli utili a fine anno. Come gli utili? Perché lui è un succio, capito? Si avanzano soldi dopo che fanno, che comprano macchine, quello che ci vuole, se li dividono tra di loro. Magari, beata Eddie, beati loro, io guardo sinceramente l'ho fatto da tutte le parti, mi hanno detto Manuele, conoscendo gente pure che lavora, Manuele guarda se non c'è il calcio in culo non entri, devi conoscere qualche politico, allora sì che ti assumono subito, se no così non entri mai nulla. E poi lavoro, sembra che sia, che ti stiano dando oro, cazzo, con questo lavoro qua, è un lavoro stressante, mamma mia. Ma se sei qua, ma se la gente che se ne sta andando via, ui, vedrai che poi, verrà il giorno che poi assumeranno cane e porci in questi lavori, in questi settori, e vedrai che aumenteranno pure la busta paga, perché vedrai alla fine non ci va più nessuno a fare le guardie. Lo sai dove stanno bene? È a Porto Torres, le guardie del porto, quelle lì stanno bene. Già li ho viste, ce ne sono due, ce ne sono. All'entrata dove c'è le cose dove entrano cose del camion merci e dall'altra parte. Sì, quelli stanno bene, sì. Sono pagati per sì. Cosa dico? Noi non ce l'abbiamo col servizio lì, noi ce l'abbiamo a parti dove fanno le strade, la fibra, questi cazzo di lavori di merda, cazzo in mezzo alla strada, di vista, che poi non puoi neanche stare a fare il notturno. Il notturno lo deve fare la guardia armata, il portierato lo deve fare dalle 7 del mattino o dalle 6 del mattino fino alle 6 di pomeriggio e basta, e poi subentra la guardia armata. E appunto cosa fai? Se ti vengono là dentro ti puoi manco difendere, boh. Appunto quando c'è qualche loro più me ne vado, cosa devo fare? E cazzo me ne frega, io chiamo a loro, poi loro si arrangiano a chiamare i carabinieri, il nostro coso è quello, non puoi neanche intervenire, ma sto scherzando. Ma è meglio, dai. Se intervieni magari la piccio. Ma non me la fotto un cazzo, non ne vale la pena. Se eri stato guardia armata come ero prima, allora sì, dovevi intervenire, perché devi intervenire per forza. Ma così non devi fare un cazzo. Tu solo, devi solo guardare, senta qualcuno, te ne vai e chiami subito a loro. è rischioso però, perché se magari non ti lasciano il tempo di andartene e ti assalgono non ti puoi difendere. A quello che era nel gabbiotto, poi l'ha dormito, dico, cazzo, l'hanno legato dentro la sedia, l'hanno colto una giussa, l'hanno legato nella sedia, l'hanno portato gli scavatori. Sono salito alla ricruta, da cazzo vai, cazzo se sei 2-3, da poi l'ha dormito un po', figurati se c'aveva anche la pistola con la pigia, se è un casino che passava. Fabio, dai, io mi saluto e sto uscendo. Ciao Gianni, ciao Emanuele. Alla prossima. Abbiamo ordinato la pizza e alle 7:30 è pronta, anche prima. Ciao Lu, sentiamo, dai. Buona serata, va già. Ciao. Ciao, ciao Luca, ci sentiamo, dai. Buon appetito. Magari me lo dirò anche io più tardi, però. No, adesso è troppo presto. La 7 sono, vai lì, faccia la mano, ordinato. Allora sai oggi che dove sono andato a sta pranzo? Uno yogurt e 3 pesche. Boh, non avevo grana di mangiare oggi. Ero stanco morto, dai, sono la morte tutta la casa. Spolverato, pulito i bagni, tutto gatto. Mi sono trovato un mazzo. Cioè, è normale, anche la casa è pulita, boh. E poi la casa tua è grande lo stesso. Sì. 95 metri quadri, dai, già va bene. Per me ce n'è fissa e truppa. È troppo grande, cazzo. Vabbè che è grande anche per me questa qua, figurati. Sì, vabbè, magari ci devi mettere qualcuno pure. Ma anche se sei in due grande, cosa cazzo me ne voto di 3 camere? Me ne voto un cazzo. Allora basta, una cameretta, camera, cucina e sala assieme. E boh, la sala neanche la sputo, figurati. Te lo affitti la camera e ti fai sciogliere, la studenti. Vai, vai, cosa che fa affitti? Se vuoi che cazzo di buono non ti lisci, non si andrà più. Senti, se ti metti giovane di quelle che cercherò casa per andare, vabbè che è un po' fuori mano dall'università lì. Non va lontano. No, ma non lo farei mai, tu, no, non ci metto nessuno in casa. C'è come per me, io non mi fido, boh. Sono attentato, affittatela con la camera, sempre vuota, è un peccato. E vabbè, lasciala stare come te, affittati. Se la vuoi fare anche tu, lo aspettiamo, eccetera, c'è la camera per gli ospiti. Appunto, non conviene affittare a gente estranea. Oggi che oggi poco da fidarsi c'è con questa gente. E voi che sono di mare più tranquilli, non mi delinquativo. Te ne pure a tutto. Vabbè, non ho tratto nessuno stasera. Io mi stavo facendo la doccia e vi stavo ascoltando. E poi dopo che mi sono vestito, perché vi ho lasciato i vestiti caldi caldi, come sono uscito dalla doccia mi sono asciugato e mi sono subito vestito, quindi il corpo ce l'ho caldo. No, io sono entrato, ho sentito che frescava della Luca, ci abbiamo fatto due chiacchiere e poi sono entrato tu. Ma io l'ho lasciato acceso nel radio, ma c'ho Luis che quando metti lo spinotto del microfono fa e stava facendo tipo un corto, una cosa così. Adesso lo devo controllare il microfono, perché quando il microfono non lo fa. Ah. Cazzo, un altro pesce si sta rimaniando, ho già. Ah, ma sono 4. Cazzo, che pesce sono carnivori, so. Ma ho messo piranha, isci, incrociati. Ah, ma sta che me ne vado, allora sta di pesce, ma andate, sta cronza. È strano, però, che se pesci rossi sono abbastanza bravi come animali, non sono aggressivi né niente. È strano, E poi ho guardato dove cazzo è, non c'è nel circolazione, questi si stanno rimaniando. Ma se li mangiano li toccano gli occhi per primo, la coda agli occhi e li lasciano alla lisca, quindi deve trovare quella sicuramente con un peso di con la testa. Ah, ci ho visto un cazzo, non ho visto niente, questi si stanno rimaniando tutto, questi sono piranha, so. Non capisci da andare. un giorno ci vengo io con te, andiamo insieme e andiamo a via di Mille, così se vedo qualcosa che mi interessa me la prendo anch'io, qualche cosa, qualche pesce incinta già. Quale che mi stavi dicendo, che tu hai detto che fanno i figli e non stai lì a prendere altri pesci, fanno sempre figli, quali erano i pesci che erano di acqua fredda, acqua dolce? I guppi, però sono acqua dolce tropicale, devono avere l'acqua a 27 gradi. Ma cosa, come fai a avere l'acqua a 27 gradi? Io ce l'ho il riscaldatore, il termometro. Sopra ci deve essere una manopola che tu girandola ci sono i gradi segnati, controlla, però non sono mai perfetti perfetti, tu lo metti a 27, poi con il pollo devi fare quando non c'è il pesce, di modo che se è troppo alta la temperatura la puoi abbassare, capito? Il mio c'ha una specie di pirillino sopra che si gira e c'ha la temperatura segnata, 10, 15, 20, 25, 27, eccetera. E anche questo c'ha il pirillino sopra, in punta. Anche questo, infatti me l'ho tolto io, il cazzo di l'ordine a fare, se vuoi pesce normale, il cazzo di danno a fare, me l'ho tolto quello. Tu non la dovevi togliere, perché in caso poi ti debba servire, adesso tu ti hai messo con i russi, adesso vedi che ti vanno male, ti prendi, te lo dico io, ti prendi dei lupi femmina, già incinta, ti fanno i figli e tu sei a posto. Ciao Gianni, buonasera, buona a tutti e due. Ci siete in due, ci siete di più una cosa. Ti rimagna. Ciao, e c'è il basso del radio. Basso del radio, allora. Il coso, boh. Ti sei sempre toccando, cazzo. Quando parli tu del bastone, quando parlo a me, devo abbassare al minimo, se non mi trema mai. Abbassa la mia modulazione, ho già. No, è fortissima, passa, è fortissima. Andava, già funge bene allora, dai. Guarda dove ero adesso. Adesso sei tu. Adesso mi sembra un trans. No, che devo aumentare che cosa. E adesso giusta è. È bassa to cazzo, la modulazione è bassa. Strano che si abbassa, boh. Devo aumentare la base, lo devo buttare. Certo, perché se ne va sul rosso. Sei tu che parli troppo lontano. Adesso va bene, cazzo c'è sempre Duccandy. Oh, l'ho portato a 10, l'ho portato, però cazzo supera la freccia rossa. Cazzo. Ma adesso va bene, poco fa senti in Dio. Guarda, vedi, ancora bassa. Sì. Oh, yeah. Cazzo, è così, è già, è così. Che paga, questi lì sono sacrifici grossi, perché nessuno di loro ti sballano, cazzo. Io quando faccio per notturni lo so, te l'ho fatto un mega di notturni. Ti sballava solo il fatto di fare notturni. Ma già, guarda che interessa un'acqua di 100 litri, che c'è mezza e coglione, se no appena ce lo butto in soffitta ce lo butto. Mettilo su subito. L'ho già messo. E a Porto Bello? Ah ragazzi, Porto Bello, non ti dà un cazzo, Porto Bello. Vabbè, ma già ti... se interessa qualcuno già ti chiamano, se l'ho messo su subito abbi pazienza, non è che lo fanno immediatamente, no? Se sei fortunato ti chiama. Ho messo 45 euro, tanto me ne faccio un cazzo, e te lo sto bene, solo il coperchio un po' scolorito, anche se non ho un cazzo, guarda, con una bomboletta lo vernici, però i vetri sono buoni, il cazzo è più grosso del mio. Bisogna vedere se c'è qualcuno che gli serve, te lo fa, sì. E quel prezzo lì è buono. Cazzo è buono, sì, a regalo non lo do con i zicchi, cazzo, a regalo non lo do di certo. Io il mio l'ho dovuto riprendere tutto, scoperchio perché si era a fine di metterci la roba sopra, sai come la plastica, ha ceduto e si è spaccato al centro. L'ho ripreso con quella colla, lei era calda, l'ho fatto diventare di nuovo un uovo. Sì, anche roba pesante, non deve mettere niente sopra. Ma quando arrivo a casa, che vai giù presso, appoggio gli occhiali, le chiavi, queste cose qui, capito? Andare. Vabbè. Io adesso ho messo il mobile pure che non ce l'avevo, io ho messo il mobile suo dell'acquario che prima era appoggiato in un altro mobile, e adesso gli ho messo anche il mobile e sta meglio. Ah, l'hai buscato il mobile torero? Sì, motivo. E non l'hai trovato? Sì, e ce l'hai andata là, a Urbia a prenderlo, ce l'aveva uno. A Urbia? Sì, era Urbia perché dovevo fare delle commissioni e sono andato in questo mercatino dove conoscevo uno e il cazzo l'ho trovato lì e c'era lì il mobiletto, l'ho preso subito. Che fortuna. E quindi va a vedere tutto completo, di pesce che ti manca. Fidati quelli che ti ho detto io, che sono facili da gestire, non sono difficili. Tu devi cambiare solo due o tre come fai con i pesci russi, basta. C'è una differenza che c'è il termoriscaldatore in più e basta tutto lì. E adesso vediamo già, dai, vediamo. Adesso vi so quattro pesci, vediamo un po' cosa fare. Ma di quelli, di gruppi ce ne sono minimi, con le code a ventaglio, ma grandi, tutte colorate, e non sono pesci russi, capito? A me non fanno figura. Poi ti metti un po' di neon in mezzo, neon e gruppi, e qualche pulitore, e sei a posto. Adesso vediamo, appena prendo il cash, ne metto almeno una decina già ci stanno, sì. E dipende cosa metti dalla grandezza. Piccolini, cazzo devo muovere, una garpa se lo muovi. Più ne metto peggio è, perché le malattie se le trasmettono prima, eccetera. Quindi io ho cominciato con metterne pochi, perché poi se ti muovono tutti quanti, cazzo speso un po' di soldi, invece comincia con pochi, ne metti 5 e poi vedi come va, non puoi rimuovarsi zitto. Te li scegli belli, non te ne pigliare tutti insieme per avere il coso. Se ne vedi per dire due belli, non ce ne altri, se ne più prendi quelli due, poi la prossima volta ritorni e ce ne sono altri ancora screziati, di tutti i colori, capito? Adesso voglio andare lì in via dei Mille, dove mi hai detto tu, a vedere se c'è qualcosa di meglio. Lo sai, no? No. È dietro via d'Italia, rimane. Ma allora io faccio la strada di per andare all'ospedale, giusto? In pratica rimane dove c'era la stecca gialla, la bara stecca gialla, palazzo giallo. Allora vai via l'Italia, arrivata al semaforo in fondo dove ci sono quelli che vendono fiori e cose, arrivata al semaforo e giri a sinistra, poi di nuovo la prima a sinistra, quella lì è la via. Non c'è da sbagliare, arrivato all'altro semaforo, giri a sinistra, dove c'è, hai visto dove c'è l'Ilai? Devi praticamente andare dietro l'Ilai lì. L'Ilai? Se l'Ilai non è a cosa l'Ilai? E dove c'è Vialghero, vicino a Vialghero? No, l'Ilai è praticamente via Vendo, non ti stai facendo confusione, con l'Ilai. Comunque già lo trovo, dai, vedo un po' se riesco a trovare qualcosa di meglio. Sì, non è difficile, no. Arrivati via l'Italia, invece che continuare per andare verso l'ospedale, svolti a sinistra e poi l'altra traversa a sinistra di nuovo, e quella lì è la via che devi andare, vai in fondo, dove c'era, quindi facciamo qua la canestra, non mi ricordo come si chiama, un po' più avanti. In pratica è dove c'è il rifornitore, passate il rifornitore sulla sinistra, in quella via lunga. Sì. E Nina, non lo so dove, cazzo c'è scritto in grande grande Nina. Rifornitori sul lavoro, Nina, non lo so dove. Ah, non mi sono mai abbassati. Comunque già ho capito quella via lì, già ho capito dove. Ma qua arrivi al semaforo, svolti a sinistra perché poi Roma a sinistra, la prima attraverso a sinistra, non ce l'ha sbagliato. Già ho capito. Aveva il semaforo di dove c'è il policlinico. Gira a sinistra, dritto a sinistra ancora. Sì, sì. Dipende se ancora hai promessa che è l'altra, dipende. Adesso non mi ricordo a che altezza è. Però sì, sì, forse anche prima puoi girare dove c'era Lupin, tra Lupin e. Che cos'era l'altra? La standard, che adesso non mi ricordo più che cosa ci sia lì. Esatto, lì c'era Lupin una volta. Sì, c'era Lupin una volta lì in quel negozio. È che tu vai in fondo e poi ci butti di nuovo a sinistra. E lo trovi. Solo che il problema è trovare il parcheggio di Manuel, è un casino. Io ogni volta che vado devo mettere la macchina male dietro il cassonetto, non vado lì perché non c'è mai parcheggio. E si hanno già in moto. In moto già non è parcheggio. È in moto sì. La moto è per quello che è bella, perché puoi andare a tutte le parti. Io quando devo fare documenti, roba genere, andavo in moto, secondo me ti faccio di tutto. Invece macchina a 3 ore cercando parcheggio e non a Ciappi, ieri a Biuto. Oh, via, è un casino, sai. E se è in casa dove la metti, cazzo, te la portano via pure. Non è quello. O ti metto la multa, te la portano via, quindi devi stare attento anche dove la metti. È un casotto, infatti se vado lì, in quelle zone lì, come anche quando andavo lì al cupolo stesso, andavo con la moto, perché sapevo che lì non ce n'era parcheggio, è tutto a pagamento, e allora andavo con la moto. E la moto è bella per quello, perché dove ti trovi la metti. Comunque devi stare attento pure con la moto, perché in Italia l'altra volta c'erano dove c'è il pronto soccorso. Hanno messo due scooter sopra il marciapiede vicino alla ringhiera, però non davano fastidio. Si sono fermati i vigili e gli hanno fatto la multa. E a me a Porto Torres quest'estate ed è morto. Visto là dove c'è la piazza di Porto Torres, dove c'è la chiesa, dove ci sono i bar che fanno il karaoke pure lì, fanno anche incontri di pugilato, facevano prima. Io l'ho parcheggiata lì a fianco al muro, un attimo. E io ero lì fuori, come avesse il vigile, lo stavo guardando, io mi fai la sua, sì, sta andando via, sì, la tolga subito. Cazzo era già filmando di ira. Faccio l'impresa, poi adesso ci sono tutti i vigili giovani, sono tutti altri pensioni, i vigili che conosce voi a produttore, sono quasi tutti altri pensioni. Alla fine ho fatto il giro, perché c'è lì uno che fa panini buoni, e pizze, ho fatto il giro, dall'altra parte ho parcheggiato a fianco alla sua pizzeria. Al Drago si è andato. D'accordo, lui è di Sassari, lui lavorava anche dall'assassino, mi sembra. Non lo so, che è a fianco alla chiesa lì. Visto dove c'è la chiesa, a fianco alla chiesa non c'è quei due locali, uno fa paninoteca, birreria e poi l'altro c'è a fianco c'è pizzeria, fa piatti composti, roba, tutta roba di mare. Ho capito. E sì lì, vabbè, la zona che fornivo io, tutti quei bar, quella zona lì la fornivo tutta io, portavo bibite, tutto quanto. E pane, per fare il paese. No, lì già si mangia bene, sono andato una volta, un paio di volte, mi ho fatto lo so kebab con i funghi, cazzo buona lì, duira. Tu mangi ancora kebab? Io non ne mangio più, da quando ho visto come lo fanno non ne mangio più. No, ma kebab sardo, non kebab che si pensi tu, kebab italiano, loro fanno quei funghi, mettono di tutto. No, italiano non ho mangiato, kebab io so che è di cose arabo. E lo so, è carne, sono due tipi di carne diverse. L'ho mangiato l'altro giorno che me l'ha portato un amico. L'ha preso lì all'emiciclo, quello che c'è all'emiciclo. E i suri, tipo i suri e cani. Mamma mia, no, questo qua è già pulito. Questo è già pulito. Quello sporco, lo sai qual è? Quello di Santa Maria. Di Bar Santa Maria, di Costa Trinità. Qui sei brutto a vivo. Io prima a Porto Torres, quando uscivo dal lavoro, a volte non avevo voglia di andare, perché uscivo tardi, non avevo voglia di tornare a casa e cucinare, allora mi fai mangiare qualche babbo con la birra e andavo lì, scendendo in piazza, poco prima della chiesa, visto dove c'era, però dall'altra parte, prima della piazza, no? C'è scritto che babbo in grande, e lo prendevo lì. Sì, lo so, io adesso quanto ne mangiavo quando ero a Milano, ma a Milano non facevano buono veramente, ma buono a vivo, Però adesso con tutto quello che sta succedendo, cazzo, non ti puoi fidare di nulla con chi. Ma neanche dai cinesi non ci sto prima, prima andavo spesso dai cinesi, ma va, non ti puoi fidare di niente di quello che mangi. Io dai cinesi una volta solo sono andato e sono stato un mese, ma una settimana mal di pancia e diarrea. Figurati, perché usano l'olio, anche l'olio che usano, cazzo lo fanno roba di 6-7 volte lo usano con l'olio, figurati. E per 18 euro c'era la self service, per 18 euro ti facevano anche elastici, te la prendevano tutta, la scendevi e te la cucinavano davanti, lì però vedi tutto perché te lo fanno sul balcone che è davanti alla gente proprio, capito? E quello che c'ha per Danilo, adesso non mi ricordo come si chiama, mi hanno convinto, io non ci volevo andare, eravamo tutti in grefa, amiche, amici e cose, ma hanno convinto, io voglio fare l'orso, dai, ma a me non mi piace la roba cinese, non ci vengo a fare, mi sono mangiato queste coscette che non so se era rana o che cos'era, quelle erano buone, imparate fritte, coscette piccole, se non di suoi, un burro. Tu sei andato da Cocco, cioè da Cocco e l'altro, ma cazzo si, Yumi mi pare. No, Cocco è giapponese, non è cinese. E lì a Cocco ci ho mangiato tante volte, ma sono meccanimi, cazzo in due che c'è un conto di 60 euro, 70 euro, in due. Tu dici puoi mangiare quello che vuoi, vabbè, però poi alla fine non è più grande di mangiare tutta la roba di tariga che richiede. Poi lo sai cosa fanno? Se non ti mangi tutto devi pagarti la multa. E ha detto, cazzo io si è aggiungato con Mario Vissi che me la vostra maglia, che cazzo me lo dici, devo pagarmi la multa, non aggiungo un peso. Cazzo, come che tu vai in ristorante, ordine, cazzo, non ce la faccio e mi devo pagare, ma lì cazzo si è mai visto. Tu puoi ordinare anche 4, 5, 6 volte, però te la devi mangiare la roba, capito? Se la ordini, perché loro sono contro lo spreco, se la ordini e non la mangi, ti fanno pagare in più. Lo so, già lo so che è così, ma non va bene, cazzo non ho compreso. Ma io già lo so, cazzo me ne ero dimenticato per il culo. E infatti, quando ci fa? Ancora basso sono. Ehi, ma cazzo vuoi? Andavi mai a fare la Ducato, No, ho cambiato il microfono, cazzo che c'è radio, boh. Beh, mio, non l'andare a sì. E adesso basso, Adesso per me va bene, da Gianni non so. Sì, adesso va bene, dai. Però era più alto prima. E quando ho messo l'altro microfono cambiava da giorno alla notte. Sì, perché l'ho messo a 10, l'ho messo. Ecco cos'è. E tu pare lo usi, scusa, perché non lo devi mettere a 10? Tu metti a 10, se sai che esci bene a 10 lo metti a 10, lo dai a fare. Ah, ti si carica già subito la batteria. Ah, ma sei, neanche non credo se prendi il microfono. La batteria non mi si scarica, ce l'ho quasi un anno io la batteria nell'MP4. L'MP4, no, ho messo. Sta normale adesso. È normale, normale. Andiamo, andiamo, dai. Tu sei colpa di Emanuele. Sì, c'ho le spalle piccoline per quello. Ma la sorte, c'è più lago di me. Cazzo, già si può permettere, Tore, che sono le spalle piccoline io. Esci tutto piccolo. Ma sempre la ruota di me in zanzi. No, il cazzo di Amari, sarà un anno, ma vai, no, ho fatto la cucina. Prima era un cazzo di fine settimana. Prima c'era il cortile lì, potevi fare. E prima era a casa, la mamma, il cortile quasi si pulivo. Vabbè. E ci sono i pro e contro e tutto. Quando c'è il cortile puoi fare molte cose, se non ci sono rompi palle che ci sono attorno per il fumo. E cercando chi trova, mi si è puzzata tutta la roba che ci ho steso. No, per quello quando dovevo fare il fuoco lo dicevo al palazzo di chiudere le finestre, a parte che non stendevano lì, stendevano dall'altra parte, lì poco e niente stendevano, non stendeva nessuno da quella parte del giardino. Che ore sono? 7:25. Fra 5 minuti me ne vado, altri 5 minuti e poi vado a portare giù il cane. Tanto oggi non devo uscire, no, non aggiungare. Cazzo, mi ho bevuto il caffè con un po' di acqua vita e cazzo mi ha bruciato lo stomaco, ci credi? Io non ne bevo, a me non mi piace l'acqua vita, non mi piace il sapore proprio. Io non avessi acqua vita del paese, non è acqua vita comparata, no? Lo so, sempre acqua vita, io l'ho mangiata, l'ho bevuta anche quella di fatta a sorso. Immaginati com'è. Era buona veramente, però era buona perché dico che era buona perché me l'hanno regalato un boccione, veniva un amico, a cicchetta cicchetta ce l'avevo tutto edu. C'era uno che faceva la grappa con la vipera dentro, già. Cazzo monari dai, dentro la bottiglia con la vipera dentro. Ma viva! E allora? E viveva nella cazzo. No, viva no, morta, era morta, queste le fanno, le sono vipere, io non so come mai, cazzo ma buona vita, ma sicuro sì, bevi che buona, era uno dei mortanini, erami. Cazzo mi ha fatto assaggiare buona vita, ce l'aveva cazzo sia la vipera, via, cazzo in tutte le maniere via. E come cacchio le prendeva? Senti, la vipera, se ti usci che già sono fatti due e c'è il veleno. Vabbè, cerco non trovo il veleno, glielo tolgo e sono vipere, non lo so. C'è una questa bottiglia di neanche di un litro, sono bottiglie, quelle bottiglie belle da vedersi con d'esposizione, no? Cazzo gli ho detto, ma cosa cazzo vuoi per te? Ah, io non ne voglio, oh, assaggia, cazzo, mi ha fatto assaggiare, cazzo, buona vita, io. Non capisco che cosa la mettono a fare la vipera per dare il sapore. E penso di sì, per darvi il sapore sì, sicuramente. Ma sentite la vera questa cosa? Adesso vado a cercarlo su internet, se c'è. O la faceva lui, forse di suo, artigianalmente? Sì, la faceva lui artigianalmente, lo faceva tutto lui, trovava le bottiglie, proprio quelle bottiglie belle, ci metteva la vipera dentro. Ci metteva la vipera, però non so come cazzo lo faceva, capito? Tu guarda su internet, già ci sono, sì. Ci sono? Metta la qua vipera e la vipera. Ci sono, questo l'ha fatto uno che è un montanino, gli piace la montagna questo qua, e stava sempre in cerca di queste cose qua, faceva i curi, faceva anche il mirto, faceva, perché si faceva portare le bacche, che bacche lì non ce n'è di mirto. Se lo faceva portare si faceva anche i liquori. Io mi ricordo quando Tonino abitava via Maddalena, una volta sono andato a casa sua, mi ha offerto questo latte della suocera, qua, proprio buono un cribo della cantera forse. Ah sì, l'ho conosciuto anch'io, guardate lì. Per carità, è un liquore, no, lo chiamo latte della suocera, non so che cosa. Cazzo, va, ti grippa. Ti crepa, cazzo, non mi ho avuto un guccio che stavo tossendo come un matto. Ho detto, cazzo, ma potete dire, se non si arriva. E c'è anche il fuoco di Sant'Antonio, cazzo, non fa neanche a bello perché ti brucia, i polmoni ti brucia. E così non è... Ma a me assaggiare una cosa, è rovinarti, cazzo, e basta. Ciao. Sì, quello non fa bene, quelle sono robe troppo forti. Guarda, ritinti. Flesci, ritinti. Ti vai buon morì, buoni. Che scegliate la ruina già io ho tutto, eh. E certo, hai buon morì. Oh, chissà cosa ha capito. Ma io sono la buona di buon morì, buon morì. Andà l'aria. Ti brucia il sogamo. E per morire buoni c'hai o già? Io sì, grazie a Dio ce l'ha adesso sì. Ma i miei non è bello lo di acqua vite. Sì, eh. Non dovrebbe dire acqua vite. Ma commenti no, già so un anno senza venire più. Cazzo, quando ero su a Milano, a base di Jack Lane, un giorno siamo andati con un amico mio dalla mattina alle 8, a Io Manuel, doveva fare delle commissioni, aiutarmi per compagnia. Cazzo, dalla mattina alle 8, questa la sera, all'8 e mezzo di notte, cazzo mi venne Jack Lane, se non arrivi da casa ero un cazzo sciuccio. E Rudy? Io non avevo manco detto, whisky. Lo so che è whisky, lo so. Dal giorno non ho più bevuto roba così. Prima la bevevo. La bevevo spesso. Cazzo, avevo un umore pieno di ricordi. Prima già la bevevo spesso. Ma adesso, dal giorno che sono stato male, non ne ho più toccato. Sì, ogni tanto un bicchierino sul caffè, ma non ecco, ma bere così non ne ho più bevuto. No, io proprio quella roba super alcolica, capito? Sai cosa mi piace? Il mirto, mi piace la sambuca e mi piace anche la strega. Questi tre liquori che sono dolci, sono buoni. Ma è roba ma signora, io. Ma io non bevo roba pesante, non è vero. E cazzo, ma cremati, voglio bere la roba da signore, che la sambuca poi non è la signora, che io avevo un autista alla Teme quando lavoravo, cazzo, andava all'Istituto di Manzano e si mangiava un cicchetto prima a quel bar che c'è via le Sicilia giù, Yamaha, si chiama Jamaica. Da voi andavo alla stazione e io, signor Busso, che dobbiamo andare fuori, e io mi adesso bevo una cosina, doppio cicchetto si faceva. Cazzo, vai, quelli sono protocolizzati.